Se questa non ha mai sorriso, l'ha fatto apposta perché sa di meritarsi il paradiso e l'ora in cui si sfogherà. La vita è fatta di un rosario che sembra non finire mai. Per questo qualche volta è stanca e piange l'infelicità che vita. Dio, quante Ave Marie, ho già perso il conto di quanto pregai. Se quella non ha paradiso, di certo non ci pensa mai. È tutta fatta di sorriso, la professione che lei fa. La vita è come un ballo dove compagno non si sceglierà. Per questo qualche volta è stanca e piange d'infelicità. Che vita! Strade ho battuto, cosa ho guadagnato, che fine farò. E tutte le mattine all'alba c'è questa che alla messa va, e quella triste innamorata sfinita a casa tornerà. Il caso vuole che le due, che già la sorte separò, si incontrino per strada mute, negli occhi lo stesso dolore. Che vita, Dio, quante Ave Marie, ho già perso il conto di quanto pregai. Che quella non appare, strade ho battuto, cosa ho guadagnato, che fine farò. Che vita, Dio, com'è lunga la vita, perché tanta vita, se poi ci deluderà.